Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Non mi ero accorta subito che era cieca. Niente bastone, un cane lupo al guinzaglio, il passo senza esitazioni. Era una qualsiasi bella ragazza di una trentina d'anni. Capelli neri, lunghi, pantaloni neri, neri anche gli occhiali, eleganti. Alessandra, che è l'autrice di questa storia e che ha vissuto questo episodio e ce l'ha raccontato inviandogela a voi siete qui, @radio24.it, è sfuggita dalle grinfie di Margheritaina. Non si capisce bene com'è, evidentemente non dorme due notti nello stesso letto, cambia nome tutti i giorni e indossa parrucche o barbe, perché è difficile non farsi raggiungere da Margheritaina, che tra l'altro oggi compie gli anni e quindi a lei vanno tutti gli auguri della redazione di tutta la radio, di tutta Radio 24. Dicevamo, Alessandra non si è fatta trovare, quindi non riusciamo a sentire la sua voce oggi in diretta. Sentiremo però la voce di una persona che è perfettamente dentro questa storia. È una storia particolare, è una storia che parla di persone che di fatto è come se avessero gli occhi chiusi, sono persone non vedenti, e quindi nella seconda parte avremo un ospite che è non vedente ma che è soprattutto una guida di una cosa che, se non avete mai fatto, fatelo a Milano, si chiama Dialogo al Buio, e ci racconterà alcune cose che riguardano questa cosa, cioè Dialogo al Buio, e anche che cosa significhi non vedere, quali sono le cose più difficili e le cose invece magari più facili. 349-238-6666. Noi invece facciamo un piccolo esperimento, visto che non possiamo capire che cosa significhi realmente non vedere nulla. Abbiamo fatto un piccolo gioco che è partito sul profilo Facebook del nostro programma, che Voi Siete Qui Radio 24, e che prosegue in diretta al 349-238-6666. Ed è semplicissimo: quali sono le cose che sapete fare a occhi chiusi, che fate al buio, non avete bisogno di vedere per poterle fare? 349-238-6666. Sono le 16:08 minuti. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia. Il programma che state ascoltando è Voi Siete Qui. Mezz'ora al giorno, da lunedì al venerdì alle 16, in diretta per sentire la storia di una persona. Ogni giorno una storia diversa, ogni giorno un episodio che racconti qualche cosa della vita di quella persona. Fatelo se non l'avete ancora fatto. Scrivetelo e inviatecelo a Voi Siete Qui, @radio24.it. Silvia sul profilo Facebook scrive: la cosa che riesco a fare a occhi chiusi, suonare. Simone: dormire va per la maggiore. Cantare, scrive Francesca. Riccardo: picchiare il mignolino contro lo spigolo del comodino. Maglio: fare la pipì di notte. Fabrizio: disinnescare un ordigno. Sarà una battuta Fabrizio. Filippo: muovermi in casa mia. Luigi: gridare, anche se poi non succede granché. Tutto in casa, riesco a fare tutto in casa la notte, non uso mai la luce. 349-238-6666. C'è un amico che fa il grosso e scrive: spogliare una donna. Wow, non vediamo l'ora di vederlo che lo fai. Dormire e parlare. E poi Davide ci scrive: mai provato una cena al buio, è un'esperienza quasi illuminante. E visto che alcuni di noi l'hanno provata, voi l'avete fatto? Solo io? No, l'avete fatto, anche Tiziano l'ha fatto, anche Paolino, tutti, anche Margherita. Ragazzi, siamo una redazione eccellente. Visto che alcuni di noi l'hanno provata, ma qualcuno la sa spiegare meglio di noi, più tardi sentiremo uno dei coordinatori di Dialogo al Buio. E poi ancora, le cose che riesco a fare a luce spenta: spegnere la sveglia, palpare l'iPhone, che è un modo nuovo per chiamare il touchscreen. Invece, prima di cominciare con la storia di Alessandra, l'altro giorno avevamo lanciato una piccola campagna ed era: fate innamorare un vostro amico con una puntata di Voi Siete Qui. Quale usereste per farlo innamorare? E sono arrivate diverse storie. Le più gettonate però sono: rimane comunque sempre nell'immaginario degli ascoltatori di Voi Siete Qui la puntata di Scagnolari, della prima stagione, erano tre stagioni fa. Ma vanno per la maggiore anche, come scrive Umberto: grande storia quella che riguardava i mondiali di calcio del 2006 visti in Uzbekistan, se non ricordo male. Non era l'Uzbekistan, era il Pakistan, credo, erano in Pakistan. E poi ancora: siamo vivi di questa stagione della storia del messaggio lanciato nella bottiglia da una nave nemica che ha caricato questi soldati reduci di un affondamento di un sommergibile, e nella bottiglia c'è scritto "siamo vivi". La bottiglia viene ritrovata 50 e passa anni dopo. Se sapete qual è la storia con cui possiamo far innamorare una persona che non conosce il programma, scrivetela. Voi siete qui, @radio24.it, o altrimenti sul profilo Facebook o anche il profilo Twitter, che tanto Margherita Hina, anche se è il suo compleanno, è lì con Twitter aperto. Voi siete qui, R24, oppure Matteo Caccia è banalmente il mio profilo Twitter. Torniamo alla storia di oggi, chiudete gli occhi e ascoltate la storia di Alessandra. Saliva per via della Dataria con un passo ampio, sicuro. Il cane che era con lei sembrava non guidarla, ma assecondare una volontà. Occupava il centro del marciapiede, lo sapeva. La sua cecità gliene dava il diritto. E lo voleva tutto. Anche se sarebbe stato più ovvio camminare rasentando la certezza del vecchio muro del Quirinale. Io non mi ero accorta subito che era cieca. Niente bastone, un cane lupo al guinzaglio. Il passo senza esitazioni. Era una qualsiasi bella ragazza di una trentina d'anni. Capelli neri, lunghi, pantaloni neri. Neri anche gli occhiali. Eleganti. Poi, era inevitabile, urtò un passante che saliva davanti a lei sullo stesso marciapiede. Quello ebbe una reazione istintiva, si girò più sorpreso che risentito. E forse avrebbe protestato, ma si accorse che era cieca e disse la frase più ovvia: «Scusi, non l'avevo vista». Chissà perché scusarsi, la sua nuca era cieca come gli occhi di lei, ma in quel momento lui si scusava di vedere, di essere comunque un vedente, con lo stesso disagio di chi mangia il suo pasto davanti ad un affamato che non può farlo, anzi peggio, perché il cibo puoi condividerlo. Sembrava che lei non aspettasse che quelle scuse, sembrava che non aspettasse che quella frase così banale, chissà quante volte sentita, per poter rispondere. Del resto l'aveva provocata. Stronzo, non m'avevi visto? A me lo dici? E che? Te devo vedere io? Il cane era fermo, sembrava rassegnato, ma forse era solo abitudine. Poi riprese la salita. Urtava, insultava, a volte si fermava, altre volte no. Stronzi, non mi vedono loro. E guarda se qualcuno ti dà una mano. Ormai parlava a voce alta, da sola. Eravamo arrivati al portone del Quirinale. Io sarei dovuta entrare, ma non volevo lasciarla. Mi incuriosiva, era così poco conforme. E poi nella sua aggressività spavalda mi sembrò di vedere una fragilità inaccettata, sofferta. Il cane si diresse verso lo scalone che porta sulla piazza e che a quell'ora del pomeriggio era affollato di turisti che andavano a prendere posto per assistere al cambio della guardia. Per evitarli, la bestia si portò rasente al muro, ma troppo. Una coppia di ragazzi stranieri seduti sui gradini costituiva un ostacolo. Loro non avevano visto il cane e non avevano visto la ragazza. Non vedevano nulla se non l'altro. Si stavano guardando negli occhi. E non so se lo feci per loro o per lei. Probabilmente misi assieme le cose e cercai di evitare una scena che mi avrebbe dato fastidio. O forse lo feci per il cane, che mi sembrava confuso, in difficoltà. «Serve aiuto? Posso aiutarla?» le chiesi. Lei si girò di scatto verso la mia voce e vidi un viso affilato, pallido, dai lineamenti induriti ma belli. Ebbi la sensazione che stesse per mandare a quel paese anche me. E invece dopo un attimo mi disse: «Vabbè, ma non me sta tra i piedi, mettete da una parte». Così salimmo insieme. Io leggermente avanti, le facevo strada e arrivammo alla piazza. Avevamo il fiato corto tutti e tre e ci fermammo un attimo. «Mo, devo andare. C'è un ragazzino piccolo a casa che mi aspetta. Mio figlio». Lo disse scandendo con gravità e pudore le ultime due parole. Non so perché, ma restai sorpresa. Non dissi nulla. Ancora insieme passammo la piazza del Quirinale. Il cane procedeva verso via della Consulta e io volevo assicurarmi che potessero attraversare senza problemi via del Quirinale. E allora mi misi in mezzo alla strada e fermai le macchine, che arrivavano veloci. Era giusto che lo facessi, ma mi sentivo vagamente fuori posto, esagerata. Anzi, ebbi la fastidiosa sensazione di farle quasi una violenza. Non me l'aveva chiesto e probabilmente lei e il suo cane non ne avevano bisogno. First there's lights out, then there's lock up. Masterpieces serving maximum sentences. It's their own fault for being timeless. There's a price to pay and a consequence. Our galleries, the museums, they will stay there forever. All the robots and the oil paintings, they keep trying to roll away, roll away. All the robots and the oil paintings, they keep trying to roll away, roll away. I couldn't wait to tell my daughter that I'm, you know, a blind guy. Non vedevo l'ora di dire a mia figlia che sono cieco. La voce che avete appena sentito è quella di uno scrittore canadese, si chiama Ryan Knighton. È un ragazzo cieco che scrive e che racconta storie. Lui è stato parte di uno spettacolo splendido messo in scena dagli autori e dai conduttori di uno dei nostri programmi preferiti, i nostri programmi radiofonici preferiti, qui a Voi Siete Qui. Si chiama This American Life. Lo trovate in podcast e c'è un riferimento anche sul profilo Facebook di Voi Siete Qui. Andate subito a vedere di cosa sto parlando. Dovete capire un po' l'inglese perché è un programma americano fatto in una radio che si chiama Public Radio International a Chicago. Loro, una volta all'anno, organizzano una serata che assomiglia un po' al nostro live, quello che facciamo a fine stagione, il live di Voi Siete Qui, che però è, diciamo, è un po' più ricco e quindi è uno spettacolo vero e proprio. Ci sono dei musicisti, degli attori, dei cantanti e addirittura dei ballerini. Nonostante tutto, però, le storie rimangono le protagoniste assolute della serata. L'ultimo spettacolo che hanno fatto aveva come titolo The Invisible Made Visible, letteralmente l'invisibile reso visibile, riferito al fatto che la radio è invisibile, però quella sera in quel teatro tutto era osservabile, anche le persone che parlavano. La serata inizia proprio con una storia raccontata dal signore che avete sentito, Ryan Knighton. Entra in scena con un bastone bianco, accompagnato da una persona, raggiunge un microfono al centro del palco e inizia a raccontare della sua cecità e del rapporto tra sua figlia e la sua cecità. Spiega come sia stato difficile cercare di farle capire che cosa significasse non vedere. Che cosa volesse dire non vedere quando aveva appena 2 anni e quando ovviamente lei ci rimaneva male se gli lanciava una palla e lui non la prendeva. E ancora di più quando lui non gliela restituiva. E poi ha raccontato un episodio molto rappresentativo di questo rapporto. Sono insieme, stanno camminando nel parcheggio dell'università canadese dove lui insegna. Sua figlia è nello zainetto porta bimbi, quello appeso alle sue spalle. E all'improvviso, mentre lui sta camminando nel parcheggio, la sente dire «orso». A quel punto lui si ferma e riflette sul fatto che sono in Canada, sono in mezzo alle montagne e i boschi sono a 2 passi dall'università. A quel punto le chiede «scusa, cosa hai detto, tesoro?» E lei ripete «orso». Lui allora cerca di capire dove si trovi quest'orso, indica un punto e si muove nella direzione opposta, però lei continua a ripetere solo «orso, orso, orso!» Fino a che lui alza le mani per afferrare le mani di sua figlia e nel sentirle entrambe libere realizza che le era semplicemente caduto per terra il suo orsetto di peluche. Mi è venuta in mente questa storia quando ho letto la storia di Alessandra, e che abbiate a che fare con una persona che non vede oppure no, che siate una persona che non vede oppure no, andate a guardarvi, ad ascoltarvi questa storia qua. He climbed into the belly of the great white bear. It's very sticky and it smells a little fishy, but no one will look for him there. He took a moment to pick his thoughts and make them clear. Oh, what a day it's been. Oh, what a terrible state he's in. Oh, what a day it's been. Oh, what a terrible state he's in. Al buio ho occhi chiusi, so riempire un bicchiere d'acqua, scrive Massimiliano. Ho imparato a farlo ad un campo estivo quando avevo solo 8 anni. Ovviamente me lo insegnò un bimbo cieco. Si mette il dito dentro il bicchiere fino a che non si sente la punta dell'unghia bagnarsi. Ogni notte, quando mi capita di bere un bicchiere d'acqua senza accendere la luce, penso a quanto possa essere importante imparare dagli altri. Lo scrive Massimiliano, a Voi Siete Qui, @radio24.it. Sono arrivati messaggi al 349-238-6666 che raccontano che cosa riuscite a fare a occhi chiusi. Luigi da Verona dice: una cosa che so fare al buio sono i nodi di sutura. Sarà un chirurgo o un sarto. I sarti non suturano. Suonare la chitarra d'orecchio, caricare e scaricare gli chassis delle pellicole fotografiche piane e svilupparle in 3 bagni fotografici diversi. 349-238-6666 per capire un po' di più di cosa si capisce, cosa non si capisce, come si vive completamente al buio. Abbiamo sentito Franco Lisi, che è coordinatore e guida di Dialogo al Buio. Pronto, Franco? Buon pomeriggio a tutti, grazie agli organizzatori che mi hanno dato l'opportunità di intervenire. Sono qua. Franco, benissimo, sono qua anch'io, quindi siamo in 2, ottimo. Dove ti trovi esattamente adesso? Sono in questo momento a una sessione di colloqui di esame d'ammissione per i nostri corsi professionali, esattamente all'Istituto dei Ciechi di Milano, sede nella quale abbiamo allestito anche la famosissima mostra Dialogo nel Buio. Che dura da quanto Dialogo nel Buio? Da un sacco di tempo? Dialogo nel Buio, sì, abbiamo ospitato questa mostra dal 2005, è un marchio registrato mondiale, quindi è presente in 20-22 paesi al mondo, dal Nord Europa, l'Africa, l'America del Sud, Africa e Asia, e in Italia ovviamente noi abbiamo l'esclusiva come Milano, abbiamo fatto anche un'esperienza a Genova, però dire che Milano è il Dialogo nel Buio, ricopre una superficie di 600-700 metri quadri e tanto per darti, Franco, sì, un dato insomma che può essere interessante, abbiamo ormai raggiunto i 750.000 visitatori. Franco, ci dici in due parole, perché poi voglio chiederti altro, sì, che prego, cos'è? Andrò breve. Bravo. Breve. Sì. Che cos'è Dialogo nel Buio? Sì, è sì, un'esperienza che le persone che vedono fanno al buio, è un viaggio, è un percorso in una realtà e si è condotti da una persona che non vede, appunto, al buio totale, oscuro, è un buio tecnico e si sperimenta, si scopre, si esplora uno spaccato della realtà che tutti noi conosciamo, come può essere il mare, il parco, ci sono diversi dettagli, e vengono riscoperti e riconosciuti attraverso gli altri sensi, perché ovviamente si vive questa esperienza in sospensione della vista, che noi sappiamo essere il canale principale dell'informazione principale. Io, fino all'80-85%. Per quello che mi ricordo, c'è un mercato, vero? C'è una passeggiata in un prato? Sì, ci sono diverse cose, io non voglio portarle tutte alla scoprire. Certo, le carte, perché è giusto. Perché ovviamente così uno c'è un margine di curiosità, però, chiaramente. Esattamente, però dette in maniera molto generica, il parco, la città, quindi si sperimenta proprio la realtà e la si vive, si toccano e si senza vederla sostanzialmente. Senza vederla, in realtà la si vede attraverso gli altri sensi, perché comunque chiaro, un conto è il vedere fisico, un conto è il guardare, come capacità del nostro cervello, che è quella di acquisire delle informazioni e di rielaborarle, di apprezzare, di godere di questa Franco, nostra realtà, e lo si può fare anche senza vedere. Franco, tu hai figli? Ancora no. Ancora no, però ti ancora sarà no, capitato... Però, c'è l'evento. Ti sarà... Ah sì, a breve? Ok, le dita. Va bene, incrociamo le dita, allora in bocca al lupo. Grazie, Franco, ti sarà capitato ovviamente di cercare di spiegare che cosa vuol dire non vedere nulla? Assolutamente. Come lo spieghi? È una delle famose FAQ che quotidianamente ci arrivano, okay, dai visitatori. Non vedere nulla per una persona che non ha memoria visiva, perché anche il senso della vista è un senso mnemonico, quindi ci si ricorda di aver visto. Quindi la persona che non vede, che non ha mai visto, che ha perso la vista molti anni prima e non ha ricordo razionale di che cosa significa vedere, non vedere per questo tipo di persone vuol dire non vedere nulla, io vedo nero, non è il nero che voi vedete nella notte, l'oscurità, perché al buio si vede nero, no, in realtà chi è cieco, nei termini che dicevo prima, non vede nulla, è come se io ti dicessi cosa vedi dietro la nucca, non vedi nulla. Niente. Ok, Franco, mi dici qual è la cosa più difficile per un cieco nella vita quotidiana? Io credo che sia quella iniziale, essere consapevole dei propri limiti dovuti dal fatto di non vedere, quindi noi abbiamo consapevolezza che il non vedere significa vivere senza la vista, che è quella grande arma di comodità che ti fa fare delle cose prima, ti porta il mondo dentro di te. Io devo essere consapevole di questo limite, di che cosa non ho, per reagire e per andare avanti, consapevolezza di quello che è il mio potenziale e per prendere le contromisure per vivere una vita di qualità e potendo essere utile anche alla società, non quindi certo, non di peso e non a strascico. Non di peso, Franco, purtroppo devo salutarti, però una cosa in 5 secondi. Lasciami fare un'ultima domanda al volo. Dimmi se hai mai maledetto il fatto di essere cieco, se hai mai pensato cazzo, avessi potuto vedere. No, forse da bambino, come tante volte si fa, se avessi mamma mi annoio perché io sono così. Oggi sono felice di essere quello che sono. Ok. Franco, dimmi quello che mi devi dire. Dimmi quello che mi devi dire, che devo chiudere. Dialogo nel Buio, Istituto dei Ciechi Milano, www. www.dialogonebuio.org. È un'esperienza alla portata di tutti, purché la si voglia vivere. Grazie mille, Franco. Grazie, ciao, a voi, in bocca al lupo. Grazie. Ciao, grazie. A ciao, voi, ciao. Grazie. Abbiamo un minuto per chiudere, ma noi, come spesso diciamo io e Tiziano, non facciamo mai nulla per caso. E oggi, esattamente 90 anni fa, oggi ricade l'anniversario del primo, in assoluto, primo sceneggiato radiofonico. Quindi si parla di testo scritto appositamente per la radio. Risale al 15 gennaio del 1924. Parliamo della BBC, giusto? Scritto da Richard Hughes, il testo si chiama Danger, andate a cercarlo, ci devono essere delle tracce sparse nella rete. La cosa incredibile è che tutto questo sceneggiato avviene all'interno di una miniera, quindi è al buio, ci sono tre persone che parlano all'interno di questa miniera e lui stesso nelle indicazioni d'ascolto diceva questo sceneggiato va ascoltato in una stanza buia o altrimenti chiudendo gli occhi, ascoltando semplicemente le sensazioni dei tre protagonisti di questa storia. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, che sono Tiziano Bonini, Paolino Corleoni, Margherita Hina, che compie di nuovo gli anni, cioè li compie sempre solo oggi, però per noi è come se fosse la terza volta che li compie. Grazie soprattutto ad Alessandra, di cui non sappiamo nulla, ma grazie per la storia, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Riccardo, ho 28 anni, sono di San Colombano all'Ambro, vicino Lodi, e la storia di domani, che è la mia, parla di vittorie. Questa è la mia storia e io sono qui.